Forza lavoro, non depredamento, forza lavoro, non depredamento, tra diritti compratore e venditore la forza decide. Tra diritti compratore e venditore la forza decide. Vita operaia per l'autovalorizzazione del capitale. Vita operaia per l'autovalorizzazione del capitale. Vitale ruba il tempo per aria e sole. Capitale ruba il tempo per aria e sole. Arrivano le macchine e comincia a resistere. Arrivano le macchine e comincia a resistere. Capitalisti, preti intellettuali gridano. Capitalisti, preti intellettuali gridano. Sia salva proprietà, famiglia, religione, società. Sia salva proprietà, famiglia, religione, società.